voglio che vi rendiate conto di tutti i suoni che provengono dall'esterno della stanza. Are you quitting on me? Well, are you? Then quit, you slimy fucking walrus fucking piece of shit! Get the fuck off of my obstacle! Get the fuck down off of my obstacle! Now! Move it! I'm gonna rip your balls off so you cannot contaminate the rest of the world! I will motivate you, Private Pyle, if it short dicks every cannibal on the Congo! Io sono fermamente convinto che coloro fra voi che negli anni 80 avevano già un'età che gli permetteva di ascoltare e anche memorizzare musica avessero cominciato a pensare fra sé e sé: eppure questa devo averla già sentita, eppure questa, sì sì, devo averla già sentita. Poi c'è stato chi dopo qualche secondo magari l'ha individuata, chi ha dovuto aspettare fino al ritornello e chi anche alla fine della canzone non è riuscito in qualche modo a associare a questo suo ricordo il nome di un pezzo. Forever Young è il nome del pezzo e si trattava di una cover ovviamente degli Alphaville, rifatta dagli Youth Group, band australiana di Sydney che ora incide per Anti o Anti, la sottoetichetta dove sotto non vuole essere assolutamente sminuente della Epitaph. Casino Twilight Dogs è il titolo del pezzo che ha aperto la seconda parte del volume numero 4 di Eclettica, quello del giovedì per chi ascolta via etere. Vi voglio segnalare che nella prima parte di questo volume numero 4, poi troverete riscontro anche in playlist, avete ascoltato Michael Andrews, quel Michael Andrews che divenne famoso e poi sparì in pratica nel nulla grazie alla colonna sonora di Donnie Darko e soprattutto grazie ad una grande cover di un brano dei Tears for Fears, ovvero sia Mad World. tempo ormai tanto il governo quanto la maggioranza dei cittadini associavano mentalmente le sovvenzioni ai trasporti pubblici con la negazione della libertà individuale. I vari servizi subivano due regolari collassi giornalieri nelle ore di punta ed era opinione di Stephen che si impiegasse meno tempo a raggiungere Whitehall a piedi che prendendo un taxi. Era fine maggio, da poco passate le 9:30 e la temperatura sfiorava già i 25 gradi. Stephen si diresse sul Vauxhall Bridge, superando doppie e triple file di vibranti automobili intrappolate, ciascuna abitata da un conducente solitario. Questo era l'incipit dei Bambini nel tempo di Ian McEwan. I want you two turds to clean the head. Sir, yes, sir. I want that head so sanitary and squared away that the Virgin Mary herself would be proud to go in there and take a dump. Thank you. è da un po' di tempo che non sto dando le coordinate internet di Eclettica, a partire dal sito myspace.com/eclettica, su cui potete trovare in pratica di tutto, oltre che lasciare voi stessi un segno del vostro passaggio, per arrivare a giulio@radiorockfm.com, quello che è l'indirizzo di mail da utilizzare se volete iscrivervi alla lista nera della trasmissione, che vi permette di ricevere settimana per settimana la playlist, ma anche da utilizzare se volete scrivere quello che vi passa per la testa, come per esempio quello che vado a leggervi. Quando hai annunciato la variazione di orario e di durata di Eclettica, non ero molto ottimista sulla buona riuscita dell'operazione. Ho sempre considerato Eclettica come un qualcosa di piccolo, raro e prezioso, e credevo che queste caratteristiche si sarebbero un po' perse. Invece, sono rimasto piacevolmente sorpreso e penso che, anche grazie alle piccole modifiche che hai introdotto, la qualità della trasmissione sia rimasta assolutamente intatta. Questo era Dario. Pizza! Eclettica, stagione numero 13, settimana numero 31, volume numero 4, indice, Laundrette, Windmill, Michael Andrews, Battles, The Gumo, Youth Group, David van der Velde, Sister Vanilla, Muzak, Maps, Grimoire.